se non è sa di acqua, però è fuori, si dice fuori. Avevo l'antenna, e il baracchino ce l'avevo dentro e non ne pigliava la schifa. Ma tu c'avevi la banca chiusa, la cabina, e il comune non è di cabina. Ah, non avevo cabina, se non trimarano. Vabbè, cazzo, però non va tanto bene a tenere un coso così all'aria aperta, a parte le intemperie, l'assassino e tutto, ma con quelli portatilini in gomma, tutti belli sigillati, con quelli già vai bene. Ma non era le intemperie, perché dentro l'affare dove c'era lo sterco, no, il baracchino, non è pigliato a schifo. Già lo so, ma è un po' scomodo a cambiare i canali, devi infilarlo, diciamo, a meno che non c'è una bella banca chiusa dentro, se no anche io metterei il portatile. Se è un gabinato, già lo credo. Il gabinato puoi attaccare su di voi. Già lo so. Vediamo se Capri sta provando. Avanti Capri. Doppiaggio o regolato, come guarda adesso se va bene. Sì, hai mirato tantissimo, anche se sei un po' troppo forte di radio, però va bene, dai. Dunque lasciamo così. Ah no, lo chiudo qui. Però passare solo per curiosità. E come piace a me, la voglio sentire con la radio.